Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. I sobbalzi che sentite sono dovuti a degli asteroidi che colpiscono violentemente allo scafo della navicella. In questo momento, inoltre, siamo privi del sistema di navigazione, per cui non c'è possibile ritrovare la rotta. Mi scusi, è sicura di averci detto tutto, signorina? Oh, ecco, vorrei aggiungere che abbiamo finito il caffè. Niente panico, niente panico. Niente panico, o forse sì? Ok, panico. Ben ritrovati anche oggi, un saluto da Anna Migliorati. Chi di voi ha volato negli ultimi mesi? Chi di voi ha volato negli stessi mesi l'anno prima? Lo so, una domanda comica quasi come il film che abbiamo sentito, ma quello del trasporto aereo è forse tra i settori che usciranno più rivoluzionati da questa pandemia. Vi ricordate gli algoritmi? Quella che in questa trasmissione abbiamo definito la corsa del gatto e del topo tra passeggeri e compagnie aeree per il miglior prezzo possibile? Ebbene, potrebbe essere preistoria e potremmo risvegliarci con tutto un altro mondo. E allora, la nostra storia di questa settimana ve la raccontiamo così. Aeroplano che te ne vai, lontano da qui, chissà cosa vedrai. Si chiama All You Can Fly e non ha nulla a che vedere con i ristoranti per grandi abbuffate. Riguarda proprio i voli. È la ricetta che arriva dalla Cina per rilanciare il business di compagnie aeree allo stremo e aeroporti vuoti. Prevede il pagamento di una quota fissa per volare quanto si vuole. Come per le tariffe telefoniche, per intendersi, che dalla chiamata singola della vecchia bolletta oggi offrono pacchetti completi. L'idea arriva dalla China Southern, compagnia non a caso cinese, primo paese colpito dallo stop pandemico. È una sorta di abbonamento che consente di prendere tutti i voli che si vogliono fino a un certo periodo. Nel caso della China Southern Fly Happily, permette di salire a bordo dal 26 agosto al 6 gennaio, con un pass da 450 euro a cui aggiungere solo la tassa aeroportuale. Ma ci sono anche altre formule. Hainan, sempre cinese, ha pensato a dei pass di andata e ritorno verso mete scelte senza limiti a un prezzo fisso. Un po' come le offerte telefoniche, chiamate quanto volete il vostro numero preferito. Mentre la China Eastern ha lanciato un pass valido per la meta che si vuole, ma valido solo durante i fine settimana. Tutte iniziative che hanno già ottenuto un ottimo successo di vendite in Cina, riportando i passeggeri sui voli. Lasciando la Cina, Etihad Airways durante il lockdown ha lanciato i Travel Voucher, dei buoni con un valore da 250 a 65 mila dollari, validi per 2 anni che a ogni utilizzo sfruttano un bonus extra. Altro ancora succede in Australia, dove la Qantas ha messo in vendita dei biglietti per decollare a bordo di un aereo, farsi un giro di circa 7 ore e atterrare nel medesimo punto da cui si è partiti. In 10 minuti sono stati venduti 149 posti a disposizione, un biglietto ogni 4 secondi. Chi è riuscito ad accaparrarseli viaggerà il prossimo 10 ottobre. Decollo dall'aeroporto di Sydney, ritorno nello stesso luogo. 7 ore di gita senza scali. Aeroplano che te ne vai, lontano da qui, chissà cosa vedrai, le luci della sua città. Nulla che ci riguarda, non proprio. Nel paese delle low cost, come eravamo diventati, in ottobre 10 euro un volo Milano-Catania, 12 euro Milano-Bari. Non pesa certo solo l'effetto Covid, ma da noi anche l'arrivo dell'ungherese Wizz Air sulle nostre rotte domestiche. Di sicuro però prezzi così non li avevamo mai visti. Una battaglia di tariffe che esclude le tratte estere causa pandemia, ma che si gioca e come sui passeggeri che si muovono sulla penisola a colpi di ribassi. Con l'emergenza coronavirus il traffico aeroportuale è calato per tornare ai livelli di prima, bandiera di 191 milioni di passeggeri in tutta Italia, le stime più ottimistiche sono quelle del Ministero dei Trasporti, che parlano però del 2023, che è come dire tiriamo i dadi e speriamo. E allora? Facciamo i conti. Con la dottoressa Giovanna Laschena, vice direttore centrale Economia e Vigilanza Aeroporti ENAC, buongiorno. Grazie a voi. Cominciamo facendo un quadro di come è andata nell'ultimo periodo? Rispetto ovviamente ai mesi di febbraio, marzo, aprile, naturalmente è andata meglio, ma ancora però non siamo tornati e ci vorrà molto tempo prima che torneremo ai livelli dell'anno scorso. Quanto possiamo stimare più o meno a quanto siamo? Siamo a un 30-40% in meno, ma nel mese di luglio diciamo che c'è stato un lieve incremento, che però luglio-agosto un lieve incremento che però poi adesso è di nuovo in calo, in quanto ovviamente sono finite le vacanze, sono state poste nuove restrizioni anche da altri paesi. È diventato un mezzo di trasporto da crescita che era forse una seconda scelta? Sì, diciamo che forse si viaggia soltanto proprio se si ha necessità, ecco, non c'è più il viaggio almeno in questo momento per turismo, e forse in prospettiva ancora un po' ci vuole. Che comunque si stanno mettendo a punto una serie di valutazioni anche che possono riguardare per esempio fare il tampone in aeroporto. Ci sono aeroporti dove comunque si è volato di più e altri dove il traffico magari è calato di meno invece? Gli aeroporti sui quali si è volato di più sono naturalmente gli aeroporti principali in Italia, Roma e Milano Malpensa, ovviamente Roma Fiumicino e Milano Malpensa, anche perché comunque sono stati i voli di partenza o di arrivo di voli umanitari, per cui chiaramente comunque hanno sempre offerto un servizio, ma stiamo parlando comunque che nei periodi peggiori addirittura abbiamo avuto più del 90% di voli in meno, quindi comunque stiamo dicendo insomma di una diminuzione evidente. E i voli più penalizzati sono quelli intercontinentali, per i quali ovviamente ancora non è ripresa una regolare partenza ed arrivo. I voli domestici sono quelli forse più in questo momento preferiti, però dico appunto si vola più che altro per motivi di necessità. C'era sempre stata una discrepanza di numeri anche ad esempio per aeroporti con low cost e aeroporti con meno low cost, cioè mi riferisco soprattutto a quegli aeroporti che hanno fatto un po' da hub per le grandi low cost europee. Qui com'è andata? In generale le low cost stanno riprendendo abbastanza, siamo sempre comunque ad un livello di una diminuzione di almeno un 30-40% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'impressione è che anche la politica dei prezzi ormai valga quel che vale, insomma, anche il prezzo basso non ha quella appeal che aveva un anno fa, non basta quello a riattrarre verso i voli. Purtroppo in questo momento l'appeal non è dato tanto dal prezzo quanto purtroppo il problema è la mancanza di fiducia del passeggero. Insomma, quella corsa tra algoritmo e passeggero a dire trovo il volo meno caro, adesso l'impressione è che si punti di più sulla sicurezza e si rimandi ad altri momenti tutto sì, questo. In questo momento sì, i dati ci fanno pensare questo. Ovviamente poi ci sono i singoli aeroporti, quello di Orio al Serio a Bergamo, aeroporto vocato alla low cost al centro della crisi Covid, a luglio ha registrato un calo del 63% di voli rispetto allo stesso mese del 2019 e del 76% dei passeggeri. Per ottobre e novembre si teme il 60% in meno dei movimenti, il 70% in meno di passeggeri. Ma anche chi vive di turismo non sta molto meglio. Come per i voli, anche l'ENIT, l'ente per il turismo, prevede il ritorno a volumi normali nel 2023. Allora, andiamo anche in Sardegna. Silvio Pippobello, amministratore delegato dell'aeroporto di Olbia, buona giornata. Buona giornata anche a lei e a chi ascolta. I flussi di traffico per voi, come sono andati rispetto all'anno scorso? molto male come dappertutto. Noi abbiamo però avuto delle situazioni particolari, noi siamo un aeroporto molto stagionale e quindi abbiamo registrato intanto un ritorno degli italiani, quindi il traffico domestico è stato più o meno quello dello scorso anno, mentre abbiamo avuto un crollo degli internazionali, quindi il passeggero internazionale. Teniamo presente che l'aeroporto di Olbia è il punto d'ingresso degli stranieri in Sardegna. Noi abbiamo normalmente più del 50% di tutto il traffico internazionale che arriva in Sardegna. Quest'anno abbiamo avuto un crollo, il traffico è crollato fino al 35%, quindi abbiamo perso il 65% dei passeggeri. In totale poi perderemo il 60% del traffico, considerando i domestici e internazionali. In totale intende alla fine dell'anno? Cioè alla fine dell'anno. Quanto si prevede di tornare ai livelli normali? Cioè, secondo voi, in un aeroporto come il vostro basterà la fine dell'emergenza o è cambiato anche il modo di viaggiare? Il modo di viaggiare sicuramente è cambiato e cambierà anche in futuro in relazione alle norme che verranno. Consideriamo che a livello mondiale la IATA e la Eurocontrol, che sono gli enti che più importanti nel campo del trasporto aereo, prevedono un ritorno alla normalità a partire dal 2024, quindi tornare agli stessi valori del 2019 nel 2024. Noi immaginiamo che, per quanto riguarda il nostro aeroporto, che come dicevo prima vive di traffico turistico, abbiamo capito che insomma persone non rinunciano alle vacanze, ecco, viaggiano comunque e magari si limiteranno a viaggiare in località più vicine. Quindi riteniamo che potremmo noi avere una ripresa più veloce, quindi noi speriamo di tornare già dal prossimo anno o dal 2022 ai valori del 2019. Quindi diciamo, dove si viaggia per turismo probabilmente si tornerà prima agli stessi livelli, dove viaggiano gli italiani probabilmente si tornerà prima agli stessi livelli. Esatto, questo è il succo, sì. Poi ecco, la velocità di ritorno alla normalità a livello globale, quindi parlo adesso di mondo, Europa e mondo, sarà funzione della standardizzazione delle regole di circolazione. Questo lo dice anche la IATA e lo dice anche Eurocontrol. Cioè, quanto più gli stati adotteranno delle misure omogenee, quanto più la ripresa sarà più rapida. Pre-Covid eravamo nel pieno mondo delle low cost, che hanno aumentato in maniera esponenziale il traffico aereo. Come ne usciremo? Sono adattate più facilmente ai cambiamenti, al crollo del traffico, hanno cercato subito in maniera rapida nuovi sbocchi, hanno cambiato il loro programma di volo. Io ritengo che da quel punto di vista non ci saranno dei traumi, non ci sono più difficoltà, hanno le compagnie tradizionali. Grazie allora per essere stato con noi. Grazie a lei. Niente panico, niente panico. Ok. Panico. E allora, niente panico magari, ma qualche conto da fare sì. E grazie a Carmelo Lauricella in regia, a sabato prossimo, buona giornata ancora da Anna Migliorati. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.